Buongiorno, è inutile che conteggiamo soltanto i tamponi fatti dalla ASL. La maggior parte delle persone, gran parte delle persone, si è fatti i tamponi a pagamento per non aspettare appunto il protocollo Covid. Sarebbe opportuno che questi centri dessero i nominativi dei positivi. Vediamo dove arriviamo, saremo già chiusi da un bel pezzo perché saremo almeno a 60.000. Io credo che interrompere il discorso comunque di quello che al momento è ancora in carica di un presidente americano o di qualcuno del suo staff da parte dei giornalisti sia abbastanza vergognoso. Abbastanza vergognoso, quantomeno fallo chiacchierare e poi dopo in un secondo momento eventualmente fai la tua precisazione. Altrimenti, signori miei, date addito, parecchio addito a chi sospetta, insomma, che buona parte dell'informazione sia, diciamo così, filo di una certa parte, ecco, quantomeno, che non sia imparziale. Buongiorno Simone, per la sfida logistica io penso che si potrebbero unire le teste dei politecnici, degli ingegneri, delle facoltà di ingegneria e i manager di Amazon. Ecco, si fa un tavolo, un team, un super team e si imposta un piano di distribuzione. Sono sicura che se si trovano i consulenti giusti non è una cosa così impossibile. Non è per nulla una brutta idea questa, visto che hai degli esperti di logistica che lavorano nelle aziende, sfruttali, no? Parlaci quantomeno. Amazon Poste, tutto quello che volete, se la sfida del vaccino sarà vinta, ossia lo avremo, e se le complicazioni logistiche della distribuzione del vaccino saranno quelle che prospettavamo poco fa, ce ne parlava Roberta Villa, quello prodotto dalla Pfizer prevede la conservazione a temperature intorno ai meno 70, bisogna ragionarci, Vabbè, sul fronte Trump, interromperlo o non interromperlo, dibattito aperto, ne abbiamo parlato ieri con Paolo Mieli, magari oggi un altro accenno lo faremo con lui, che ne aveva scritto ieri sul Corriere della Sera, su questo tema, e oggi, dopo questa nuova interruzione, è arrivata la responsabile della campagna di Donald Trump. Sul fronte dei tamponi, confesso, adesso andremo a fare le giuste ricerche e poi vi darò la risposta corretta appena l'avrò. Io ero convinto che gli esiti dei tamponi fatti nei laboratori privati dovessero essere comunicati alle ASL. Questo mi risultava e questo mi sembrerebbe, tra l'altro, mi sembrerebbe la cosa normale. So se questo poi avviene. Questo sapevo io. Poi i tempi nei quali questi tamponi vengono processati, i tempi nei quali passano le informazioni e quindi apprendiamo la cosa, questo non è dato saperlo. Sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi WhatsApp, SMS. Vi ricordo che nella seconda parte della trasmissione, alle 8.35, nella terza parte, scusate, parleremo di scuola. Lo faremo con la viceministra Scani, lo faremo con una delle persone che ha sottoscritto un appello per la riapertura delle scuole e il non conservarle in didattica a distanza. In una giornata ancora piuttosto confusa su questo fronte, quella di ieri, con il TAR della Campania che ha dato ragione a De Luca sulla chiusura, con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha ricevuto sentenze contrastanti, è stato costretto a riaprire le elementari, però ha lanciato un appello per non mandare i bambini a scuola, e quindi un'estrema confusione con una serie di regioni che potrebbero avvicinarsi alla zona rossa e quindi portare i bambini dalla seconda, i ragazzini dalla seconda media in avanti in didattica a distanza, con tutte le perplessità che su questo fronte vi abbiamo sempre espresso, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Questa è la seconda parte però di 24 Mattino ed è quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:24 minuti, è martedì 10 novembre e i titoli dei giornali sono dedicati in parte al vaccino, in parte alle nuove zone arancioni. Il vaccino Pfizer mette il turbo alle borse, ci dice il Sole 24 Ore, il quale all'interno ha anche un pezzo interessante su questo tema, sul tema delle borse, che ce lo consegna Andrea Franceschi, il quale ci racconta che in parallelo a questo andamento positivo dei mercati, con Milano che ha guadagnato il 5,4%, Parigi il 7,5%, lo Standard & Poor's 500 a New York il 3,20%, ebbene in parallelo a questo sono scesi i titoli della cosiddetta lockdown economy, e quindi titoli come per esempio Zoom, il sistema di videoconferenze, titoli come quella, appunto Zoom, ieri era in netta contro tendenza, giù anche Netflix, ha pagato dazio persino Amazon, questo per darvi l'idea di come, no? Solamente questa notizia abbia avuto un impatto sui mercati. Parla di mercati anche il Giornale, giusto per rimanere su questo tema, la borsa archivia il Covid, è il titolo, e dice c'è una speranza. Sul vaccino c'è Repubblica che ci fa sapere che all'Italia andranno 1,7 milioni di questi vaccini, appunto della Pfizer, con le prime dosi a gennaio. Il ministro Speranza ha incontrato i vertici dell'azienda. Il virus attacca altre 5 regioni, il titolo della Stampa. Toscana, Umbria e Liguria, zone arancioni, il titolo della Nazione. Altre 5 regioni in zona arancione, il titolo del Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano invece si proietta sul futuro, per così dire, tocca alla Campania, il vaccino è più vicino. Covid, la cura c'è già, il titolo di Libero. Chiude mezza Italia, non la Campania, anche La Verità si sofferma su questo. Il Messaggero titola con una stretta in 5 regioni, ma il vaccino è pronto. Il Manifesto, testa coda è il titolo, dopo la Corte Suprema del Pentagono, Trump licenzia il capo della difesa Mark Esper, e poi in testa il titolo sul fatto che altre 5 regioni passano all'arancione. Da segnalare che il Manifesto è l'unico che lo mette in prima pagina, questa ipotesi che è circolata ieri dopo la vicenda di Cotticelli e della Calabria, che c'è un'ipotesi Gino Strada per a commissario della sanità calabrese. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso, e oggi iniziamo dalla giustizia. Vi porto prima sul Libero e poi su La Verità con due storie. La prima è di un caso che è in grado di distruggere la vita di un uomo, e che per fortuna in questo caso non sappiamo quali siano le condizioni psicologiche della persona che è stata sottoposta a tutto questo, però probabilmente difficili. Processato e condannato per le botte agli alunni, ma non era vero niente. La storia la racconta Brunella Bolloli sul Libero a pagina 12, ed è la storia di un maestro, il maestro Mariano Di Pero, che avrebbe di sicuro, racconta, preferito andare in pensione in altre circostanze in modo molto meno eclatante. E ora sentite come è stata condotta questa inchiesta, o quantomeno come sono state visionate le prove in aula. Condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi, in secondo è stato assolto perché il fatto non sussiste, e perché, a guardare bene i filmati delle telecamere che l'hanno ripreso per 100 ore filate, non ha malmenato nessuno. E perché? Perché in aula cosa sono state mostrate? Sono stati mostrati i video? No. 42 fermo immagini delle riprese che sono andate agli atti dell'inchiesta. Decontestualizzati. Riportavano didascalie già colpevoliste. Bambina tirata fuori sotto dal tavolo. Bambino afferrato per la spalla. Bambina non viene mandata in bagno. Ai bambini viene detto che saranno attaccati ai lampadari. Bambino viene scalciato mentre è sdraiato, perché l'uomo esercita una spinta con il proprio piede sulla gamba dell'alunno per farlo adagiare sul lettino. Magari metodi discutibili, ma non tali da giustificare l'arresto. Ha superato i 60, è sposato, è padre di famiglia. È stato ai domiciliari per 16 mesi e poi cosa succede? Si rivedono i filmati e si scopre che il maestro Mariano Di Pero non era colpevole. Altra storia di giustizia che, guardate, questa non solo ha dell'incredibile, ma ha a che fare con tutta la lotta che abbiamo visto in questi mesi all'interno della magistratura. chi di voi non ha mai sentito nominare, forse non so, chi si interessa di giustizia, il procuratore Cuno Tarfusser? Il procuratore Cuno Tarfusser è un uomo dal curriculum impeccabile. Salì agli onori delle cronache, lo ricorderete, perché la sua gestione della procura di Bolzano era un gioiello di efficienza. La spesa dell'ufficio era stata addirittura ridotta di 2/3 e tutto funzionava come un orologio. Andò poi all'AIA, al Tribunale Penale Internazionale, e poi cosa è successo? Aveva fatto richiesta per andare in procura a Milano, aveva fatto richiesta per andare in procura a Roma, ma nel frattempo gli si è piazzata un'inchiesta. Che tipo di inchiesta? Ce la racconta bene Maurizio Tortorella, pagina 15 della Verità. L'inchiesta della procura di Bolzano è durata più di 2 anni e mezzo tra accertamenti, controlli telefonici, perquisizioni, sequestri e interrogatori. Ha prodotto 5 faldoni pieni zeppi di documenti, un totale di quasi 11.000 pagine e a un certo punto è stata addirittura secretata. Si indagava su un'organizzazione eversiva, su un pericoloso criminale seriale, su un trafficante internazionale di droga? No. Su un alto magistrato e su un suo presunto peculato, per cui la stessa procura è stata costretta a chiedere l'archiviazione. Qual è questa accusa di peculato? Il fatto che Tarfusser aveva percorso 1 chilometro in un'auto di servizio guidata da un amico carabiniere per andare a mangiare una pizza insieme. 2 anni di indagini, 11.000 pagine e indagine segretata. Questa è la vicenda di Cuno Tarfusser, indagato per questa vicenda, poi vicenda evidentemente archiviata, se si considera che nei suoi quasi 11 anni e mezzo trascorsi all'AIA, con ritorno a Bolzano in media una volta al mese, 250-270 viaggi l'anno, non ha mai utilizzato una vettura di servizio, ma ha sempre preso la sua automobile, una navetta da e per la stazione e quindi il treno per andare in Olanda e poi tornare a casa. Questo è il personaggio. E adesso, dice Tarfusser, attenzione, hanno voluto bloccare il mio accesso a capo della procura di Milano prima e a capo della procura di Roma poi. Attenzione, perché questa vicenda potrebbe avere più di qualche conseguenza. Una pausa. Per l'ascoltatore di prima, i nominativi dei positivi, laboratori privati accreditati, già li danno, inviamo un file ogni giorno alla regione. Purtroppo viviamo in un momento dove lo Stato che ci rappresenta, ripeto purtroppo che ci rappresenta, non ha una lira, non hanno i soldi e quindi chiudere tutto diventerebbe impossibile, perché la famosa sussistenza che stanno cercando di pubblicizzare, che poi arriverà in maniera molto marginale, non c'è, ma in uno Stato equo, in uno Stato che dovrebbe tutelare chi paga realmente le tasse, il primo intervento per gli imprenditori, a sostegno degli imprenditori, dovrebbe essere quello di bloccare le tasse. Lo dico all'ultimo ascoltatore, il decreto ristori bis prevede la sospensione delle tasse nelle zone rosse e arancioni a partire dal, diciamo, le tasse dovute in novembre, con un rinvio ad aprile. Vi rimando al Sole 24 Ore a tutti per la parte dei dettagli tecnici, specificatamente su di quali tasse si tratta e cosa viene esattamente rinviato, però trovate tutto naturalmente sul Sole 24 Ore. Di Covid continuiamo a parlare, parliamo molto, adesso ci torneremo un attimo, però fatemi aprire un altro capitolo. Nel capitolo è dedicato all'arresto, lo abbiamo ampiamente raccontato nelle scorse ore, di Alberto Genovese, 43 anni, ex fondatore di Facile.it, che poi vendette nel 2014 per 100 milioni di euro. Tutto quello che c'è intorno a questa vicenda terrificante di queste feste nell'attico nelle quali girava molta droga e soprattutto genovese, lo ha ammesso lui stesso con i magistrati, commetteva violenze sessuali. Ora, le cronache che trovate oggi, che sono un po' dei, in parte dei verbali, sono terribili, come quella di Monica Serra sulla Stampa, 20, che racconta, per quanto riguarda la donna che poi ha deciso di denunciare, 24 ore di brutali abusi nei quali l'imprenditore napoletano, 43 anni, raccontano i magistrati, ha agito prescindendo dal consenso della vittima, palesemente incosciente, tanto da sembrare in alcuni frangenti un corpo privo di vita, spostato, rimosso, posizionato, adagiato, rivoltato, abusato, come se fosse quello di una bambola di pezza. E questo è il racconto. Insieme ai racconti di chi partecipava a quelle feste, una ragazza che dice sono andata là con una mia amica, poi questa mia amica è entrata nella stanza con Genovese e i bodyguard che erano là hanno bloccato, mi hanno impedito l'accesso a quella stanza. E poi c'è la questione dei silenzi, ed è quella che viene sollevata da Giuseppe Guastella e Gianni Santucci su Corriere della Sera a pagina 27, perché a queste feste non è che partecipasse solamente lui con delle ragazze, c'erano delle altre persone e sui silenzi forse anche su questi bisognerà ragionare. Tutti sapevano o quantomeno sospettavano, scrivono a pagina 27 del Corriere, appunto, Guastella e Santucci, che il ricco Alberto Genovese drogasse e violentasse le donne. Lo sapevano gli amici che lo coprivano. Ad Ibiza, di fronte a una ragazza che aveva appena subito una violenza, il più stretto compagno dell'imprenditore lasciò scivolare una velata minaccia. Mi disse, racconta la giovane a verbale, che io non ero una bambinetta sprovveduta e pertanto non mi sarei dovuta mettere in una situazione nella quale non volevo stare. Delle derive aggressive sapeva forse il buttafuori che faceva la guardia alla porta sbarrata della camera da letto dello stupro, forse lo immaginavano le stesse donne belle giovanissime che partecipavano ai party nel lussuoso attico e superattico nel centro di Milano. Eppure nessuno ha fermato il brillante ex amministratore di facile.it, diventato milionario con le start-up. A farlo finire in galera è stata l'unica che ha avuto il coraggio di denunciarlo dopo aver rischiato di morire. E chiudono il pezzo dicendo che riprova che l'ambiente sapesse coprisse una giovane modella che ha partecipato due volte e poi si è allontanata alle feste di Genovese, sui social ha scritto: tutti sapevano e tutti facevano finta di non vedere, perché là dentro c'erano alcol e droga gratis, le sue feste erano solo un pretesto per trovare nuove vittime. E forse anche su questo bisognerà concentrarsi. Su Repubblica, visto che siamo in tema di violenze subite dalle donne, Concita De Gregorio entra sull'ultimo caso di cronaca. È l'uomo che nel momento nel quale la sua donna, la sua compagna, sua moglie gli ha detto, siamo nel torinese, ti lascio, lui impazzito ha ucciso i figli, lei e il cane. E allora Concita De Gregorio a pagina 29 sulla Repubblica ci si sofferma e torna su questo tema. Ogni volta è diverso, ogni volta è uguale, non si riesce nemmeno più a raccontare cosa è successo, come, a che ora, dove erano le vittime, dormivano, di certo al primo colpo gli altri si saranno svegliati, allora cosa hanno fatto, si sono difesi, si sono nascosti, insomma è un po' l'ultima carneficina. E dice: non serve, non bastano le denunce delle donne. Alle ragazze dico: non denunciate, dopo sarà peggio, prendete i vostri figli e scappate di nascosto. È ancora un padre che parla. È triste, ma è vero. Quante sono le donne uccise dopo aver denunciato? E poi ci sono quelle che non sanno, non possono, non riescono. Cosa serve dunque? Esiste un solo farmaco fin qui noto e non ha effetto immediato: l'educazione. Dall'asilo, martellante. Educazione, cultura, modelli condivisi. Non deve essere nel novero delle ipotesi uccidere qualcuno che non è tuo, perché nessuno è tuo. Servono libri pensati per questo, scuole possibilmente aperte e sicure. Pazienza se costa caro, scrive Concita De Gregorio. Mi pare un buon punto. Questioni Covid. Allora, trovate un po' dappertutto naturalmente il tema delle regioni. Trovate qualche titolo sul fatto, come vi dicevo, per esempio il Fatto Quotidiano ci apre, se non vado errato, anche La Verità, sul fatto che la Campania resta fuori dalle nuove aree arancioni, dalle nuove regioni arancioni, che sono, come abbiamo raccontato, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, mentre Bolzano diventa zona rossa e questa Campania è in bilico. Però il tema della trasmissione dei dati regionali, ci racconta bene Sara Monaci a pagina 5, è in questo momento sotto la lente degli inquirenti. Genova, Napoli e Reggio Calabria sono le procure che potrebbero essere coinvolte. Da una parte il monitoraggio tecnico e dell'andamento del contagio nei vari territori italiani, dall'altra il nuovo fronte delle inchieste, per ora conoscitive, sul perché alcune regioni abbiano inviato dati parziali o in ritardo al Ministero della Sanità sullo stato di occupazione ospedaliera, sul tracciamento del Covid o sul personale medico. Quindi anche su questo, su queste questioni si indaga, mentre il ministro Speranza ha mandato un'ispezione per capire esattamente sul fronte dei dati dalla Campania come stiano le cose, il traffico. Allora, trovate ovviamente molte cronache da molti giornali, da vari territori. Vi faccio un esempio, a pagina 7 del giornale c'è quello che si racconta su Monza, che adesso ha paura perché sono contagiati 340 medici e dicono da Monza: qui è la nuova Codogno, serve l'intervento dell'esercito e della protezione civile, servono forze esterne. L'ho chiesto alla regione, adesso l'epicentro della pandemia siamo noi, raccontano appunto da Monza e soprattutto dall'ospedale San Gerardo, che è in particolare difficoltà. A parlare tra l'altro il direttore dell'azienda ospedaliera di Monza, Mario Alparone, dice: la capacità di mantenere attivo un ospedale dipende dall'equilibrio tra entrate e uscite di pazienti. Questo equilibrio da circa una settimana è stato progressivamente compromesso. Stesse cronache che arrivano da Varese, stesse cronache che arrivano da Novara, ne trovate ovunque su tutti i giornali, a testimonianza di una preoccupazione e di una situazione che si concentra ovviamente soprattutto in alcune zone, esattamente come fu durante la prima ondata. Abbiamo parlato molto di tamponi. Oggi vi segnalo che a proposito di inchieste giudiziarie sul tema della comunicazione dei dati e di come vanno le cose, c'è aperta tutta la questione calcistica. Ne avete sentito parlare già in GR24 nel nostro servizio, e però nella giornata di ieri, giornata nella quale la giornalista della Gazzetta dello Sport, che aveva raccontato della vicenda dei tamponi della Lazio, è stata fatta oggetto di inaccettabili minacce, nella giornata di ieri la Finanza ha sequestrato i 95 tamponi fatti dal laboratorio di Avellino al quale la Lazio si era rivolta per far verificare quali giocatori fossero eventualmente contagiati. Ecco le controanalisi, racconta Valerio Piccioni della Procura della Repubblica di Avellino. L'affare dei tamponi della Lazio infatti vivrà oggi qualcosa del genere, dopo la decisione dei magistrati di effettuare un esame bis per verificare la correttezza dell'operato della futura diagnostica. Il laboratorio di riferimento del club biancoceleste è finito nell'occhio del ciclone fino all'apertura del fascicolo, con l'iscrizione nel registro degli indagati del presidente del consiglio d'amministrazione Massimiliano Taccone. L'ipotesi è falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. Sarà l'ospedale Moscati di Avellino a riprocessare questi 95 campioni e vedremo quando saranno riprocessati che cosa emergerà esattamente. Sul fronte sempre Covid, se vogliamo, ma sull'aspetto più strettamente economico, trovate un po' su tutti i giornali: Il Giornale a pagina 12, La Stampa a pagina 11, Il Sole 24 Ore un po' più freddamente, per così dire, con i dettagli di come funzionerà questo decreto ristori. Ci dà un po' la misura di quello che succede e anche la complessità Perché? Perché ci racconta Paolo Baroni sulla Stampa che sono 130 in tutto le attività e i settori che beneficeranno dei contributi a fondo perduto previsti dai decreti Ristori e Ristori Bis. Come ben capite, se tu ci metti 130 categorie e 130 tipi di attività, tutti quelli che rimangono fuori vanno in bestia ed è esattamente quello che sta succedendo, come ampiamente prevedibile. Cosa succede? L'ampliamento delle attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto è certamente significativo. Rispetto alla prima lista sono state aggiunte una ventina di voci, dai bus turistici alle scuole di danza, dai musei ai negozi di bomboniere, ai produttori di fuochi d'artificio, fino a zoo e guide alpine, indennizzo tra 100 e il 200%, fino a un limite massimo di 150.000. Sono inclusi anche i bar che nelle zone gialle avranno il 150%, in quelle rosse il 200%, gli alberghi aggiunti solamente in extremis, fuori agenti di commercio e dentisti, dentro appunto i sexy shop e, a quanto raccontano dalle associazioni che si occupano di matrimoni, agenzie matrimoniali e via dicendo, a quanto raccontano anche le agenzie di escort, perché paragonate ai servizi matrimoniali e dunque a quanto pare riceveranno i ristori, loro sì. Gli agenti di commercio no. Vedremo poi se questa notizia sarà confermata o se poi le linee interpretative che arriveranno nei decreti saranno un po' riviste. Rimangono in sospeso, se permettete, una serie di dossier. Certamente quello di Autostrada e di Atlantia, del quale parliamo ogni volta diffusamente con il nostro Paolo Mieli. E però anche quelle sull'Ilva. E saggiamente il Sole 24 Ore oggi ci riporta coi piedi per terra su questa vicenda e siamo a pagina 15. Trattative sulla ex Ilva avanti senza accordo. E spunta, indovinate un po', l'ipotesi di un rinvio anche in questo caso. Domenico Palmiotti: mancano solo 3 settimane alla fine di novembre, data entro la quale, con l'accordo del 4 marzo al Tribunale di Milano, ArcelorMittal Italia e Invitalia dovranno chiudere l'intesa destinata a cambiare l'Ilva con l'ingresso dello Stato nel capitale. Manca aprire una fase nuova che, attraverso un periodo di transizione, approderà alla decarbonizzazione. Certo, ArcelorMittal e Invitalia stanno continuando a discutere. In questa fase il confronto è concentrato sul piano industriale della società, si sta lavorando per chiudere entro fine mese. ArcelorMittal ha la possibilità di uscire versando una penale di 500 milioni. È prevedibile che anche in questo caso si vada ad un rinvio. A proposito di... non abbiamo tempo per leggere gli articoli nel dettaglio, vi voglio segnalare però che c'è solamente il Quotidiano Nazionale che se ne occupa. Gestit, una delle multinazionali del cibo a domicilio, ha dato una svolta dal punto di vista della tutela dei fattorini, ossia saranno dipendenti, dal 2021 saranno dipendenti con contributi regolarmente pagati. Vedremo che cosa succederà su questo fronte, su una vicenda che ha acceso infinite discussioni, come sapete anche sul contratto sottoscritto dall'UGL con alcune aziende del settore, a chiudere lo sport. Come sapete, incombe sul settore sportivo questa ipotesi di riforma firmata dal ministro Spadafora, la quale prevede il limite di 3 mandati per i presidenti delle federazioni sportive. Ebbene, ci racconta il Corriere della Sera a pagina 53 che in queste ore tutti i presidenti delle federazioni si stanno affrettando a convocare elezioni e a farsi rinnovare per un ennesimo mandato. E abbiamo dei record pazzeschi. Sabatino Aracu, presidente della federazione pattinaggio, 27 anni di mandato. Luciano Rossi, presidente della federazione tiro a volo, anche lui da 27 anni. Paolo Barelli, anche senatore di Forza Italia, è stato ospite da noi, lo ricorderete, 20 anni presidente della federazione nuoto. E poi Gianni Petrucci, 15 anni presidente della Federbasket, tutti verso il rinnovo prima della riforma. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli.